siamo in collegamento con Michela, la cantante della band. Ciao, benvenuta sulle nostre frequenze. Ciao, grazie mille a te. Ciao, allora tu non sei nemmeno l'unica cantante. No, siete in tre. Infatti, sono in ottima compagnia. Siete tre cantanti e soprattutto siete in totale, correggimi, 16 elementi la vostra band. Sì, variabile tra i 16, 18, 20, dipende un po' da quanto riusciamo. Allora, dobbiamo stare in due furgoni da 9, quindi il massimo è 18. Sì, se andate di più ci vogliono tre furgoni. Esatto, poi diventa problematico. E soprattutto direi che forse uno dei problemi più grandi che trovate è, vista la vostra grande quantità di componenti, trovare anche posti dove suonare, perché in alcuni locali non c'entrate. No, infatti. Allora, oggi è un giorno importante per voi, esce il vostro nuovo album che si intitola Sulla rotta dei venti, però prima di parlare del nuovo album direi che facciamo un passo indietro, iniziamo un po' dalle origini, com'è nata la vostra band, vorrei che ci raccontassi. Ma allora, la band nasce come nascono molte band, quindi da un piccolo combo di amici. Mi verrebbe da dire questo, insomma, diciamo che il nucleo iniziale è stato creato da Max Ravanello, che è il trombonista, arrangiatore e compositore di tutti i brani dell'orchestra, insieme a un altro gruppo di amici che sono poi rimasti, che sono Rosa Mussin, Freddy Frenzi, che è arrivato subito dopo, io sono arrivata un pochino dopo, però diciamo che proprio la primissima parte dell'orchestra, che poi tra l'altro nella sua origine era un'orchestra che faceva cover di brani swing piuttosto che reggae rivisitati e riarrangiati sempre da Max, nasce da questo, quindi una grande passione per la musica ska, per l'improvvisazione, quindi l'idea di inserire strumenti a fiato che potessero esprimersi a livello jazzistico, no, all'interno degli arrangiamenti. Questo connubio ha poi fatto sì, insomma, che nascesse l'orchestra, che però poi sì, in brevissimo tempo ha avuto l'esigenza di cominciare a scrivere, ecco, cose proprie. Infatti il vostro nome, Northeast Ska Jazz Orchestra, già racchiude un po' tutto, cioè dice, esatto, di dove sì, siete, del nord-est, fate ska jazz, siete un'orchestra, infatti vi dedicate principalmente ska jazz, però avete anche altre influenze, ovviamente reggae, ma anche quelle più orchestrali, swingate, diciamo. Quali sono i gruppi a cui vi ispirate da sempre, a cui avete tratto ispirazione per i vostri lavori? In realtà racchiuderle tutte è difficile, perché poi ognuno di noi arriva da estrazioni un pochino diverse. C'è chi è più fedele proprio ai primi anni dello ska, anche magari proprio a un primo Bob Marley che ancora no, era su quel mood, per poi passare a, non lo so, le grandi orchestre di Count Basie, chi è più appassionato di musica soul, chi è proprio più vicino al reggae roots. Quindi secondo me ognuno di noi ha poi portato quelli che sono i propri gusti per rimetterli all'interno dell'orchestra e creare, poi perlomeno cercare di creare un sound che fosse il più possibile nostro. Voi siete nati nel 2012, sì, se non vado errato, nel 2014 avete pubblicato il primo EP che si intitola Music for Marikana, che avete prodotto insieme a questa associazione Time for Africa per un progetto, se vuoi raccontarci di questo progetto. Ma Umberto è un caro personaggio della nostra zona, della zona di Udine, che da moltissimi anni si occupa di progetti soprattutto nel Sudafrica. Lui è stato lì moltissime volte, soprattutto per costruire pozzi e quindi portare l'acqua potabile in zone dove appunto non è possibile averla, e quindi insomma è stato per noi molto bello e molto importante supportare il suo progetto, perché sappiamo che ci crede, che è serio in quello che fa, e quindi lì è nato quel primo passettino, ecco, che ci ha poi portato a tutto quello che è avvenuto dopo. Il ricavato della vendita è stato tutto devoluto quindi per questo progetto, sì, giusto? Sì, esatto, diciamo che la finalità era quella, e poi c'è stato un concerto che ha presentato questo disco in cui appunto siamo riusciti a raccogliere un po' di fondi per tutti i progetti legati a Time for Africa. E nel 2015, poi l'anno dopo, avete pubblicato invece il primo album, Stompin' and Rollin', che invece era tutto di cover, sì, un album di varie cover, e poi in quelli successivi invece vi siete dedicati a brani inediti. Esatto, esattamente. Da lì poi, diciamo, dal primo disco in cui ancora c'era questa idea di omaggiare comunque dei brani e degli autori per noi importanti, anche appunto come sotto forma di sfida. Tutto è partito poi dall'arrangiamento che ha fatto Max di Take Five, che comunque ha portato molta fortuna all'orchestra nella prima parte della storia del gruppo, e da lì poi quello è stato poi un trampolino, no, per dire ok, dai, proviamo a registrare anche altro, ad arrangiare anche altro. E poi secondo me i riarrangiamenti di canzoni bellissime, famose, che già nascono come brani importanti e ricchi di spunti, ti porta poi a metterti un po' in gioco e a dire ok, adesso provo a metterci un po' di più del mio, no? Sì, che poi comunque diciamo il passo un po' obbligato, tra virgolette, per quasi tutte le band. Molte, esatto, iniziano con le cover, poi per forza di cose devi un po' fare anche brani originali, perché sennò con le cover diventi la classica cover band e quindi rimani fermo lì, ecco. Non è... Sì, sì, diciamo che insomma c'è stata poi subito una, non direi proprio un desiderio, ma direi proprio un'urgenza di metterci a scrivere un po' quello che avevamo dentro ognuno di noi. Ecco. Dopo avete fatto anche un album insieme ai Wicked Dub Division. Com'è nata questa collaborazione? Ma allora, la collaborazione con i Wicked risale al 2017, in cui è stata registrata Mama. Tra l'altro ieri era anche il compleanno di Mama, che è questo, il primo video che noi abbiamo girato insieme. Anche lì un'idea che ci è venuta per gioco, per divertimento, per passarci una giornata insieme a fare questo video con zero aspettative, proprio per la sfida anche di mettere insieme un gruppo dub con molta elettronica, un'orchestra e tre cantanti. E quindi da lì è nata Mama, è andata molto bene, insomma, negli anni è stata ascoltata da tantissime persone. E quindi poi in realtà il disco live è stato registrato in un momento veramente molto particolare, perché era giugno 2020, quindi noi l'abbiamo registrato subito dopo la fine del primo Covid, diciamo. Quindi sì, i primi esseri umani che io personalmente ho visto sono stati proprio loro, e quindi è stata un'esperienza emotivamente davvero molto molto forte, perché dopo mesi, mesi, mesi che eravamo appunto tutti chiusi in casa senza musica, registrare quell'album, ritrovarsi tutti nella stessa stanza, perché l'album Wicked Division è registrato in presa diretta, quindi l'abbiamo fatto tutti insieme con un live, è un'esperienza che sì, ci portiamo tutti quanti dentro in maniera molto speciale, per tutto il contesto, no, che c'è stato poi intorno al periodo storico difficile. Sì, infatti diciamo che è stata una bella sfida, sia per il contesto, il periodo in cui eravamo, e sia perché comunque il dub con l'orchestra non è proprio una cosa che di solito si trova insieme, quindi è stata anche dal punto di vista musicale sicuramente una bella sfida, ben riuscita anche, devo dire, sicuramente. E veniamo a oggi, che esce il vostro nuovo album, che si intitola Sulla Rotta dei Venti, che questo nome ispira molto un viaggio in mare in generale, anche musicale, da quello che ho potuto ascoltare. Sì, assolutamente, e soprattutto direi che la chiave più importante di questo viaggio, e che secondo me è diventato poi un viaggio a ritroso, nel senso che ci ha fatto un po' ritrovare le nostre origini, e quindi se partiamo dall'inizio, proviamo a registrare un album di cover, dopodiché nasce un album in inglese e dopodiché arriva un album in italiano. Quindi abbiamo fatto il giro, ecco. E quindi diciamo che ci sono due elementi fondamentali. Il primo è ritrovare anche proprio dal punto di vista strumentale un po' di, come posso dire, un sentimento che ci potesse un po' avvicinare al nostro territorio e anche ai Balcani che ci sono proprio accanto, quindi ritornare un po' ad acquisire un po' di folk nella musica e meno America. E provare in realtà, come prova davvero inedita per tutti quanti noi cantanti, a scrivere in italiano, perché sembra una cosa stupida, ma in realtà nessuno di noi aveva mai scritto prima in italiano, quindi è stata una prova veramente forte, importante, che ha, come posso dire, anche creato degli scossoni nella prima parte di stesura di questo album, perché non sai se poi sei davvero in grado, no, di fare un cambiamento così radicale. Però poi quando entri nel flow dici ok, ormai sono dentro, devo portare questa cosa a termine, e via, vediamo come va. Adesso appunto che vada sulla rotta del suo vento e vediamo cosa succede. Sì, in effetti la contaminazione che si nota di più, come hai detto te, è quella balcanica, perché comunque siete vicino ai Balcani e avete fatto questa mescolanza con le musiche balcaniche. Direi a tal proposito di ascoltarci un brano dal vostro album, poi dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci riascoltiamo dopo, rimanete in nostra compagnia e ci ascoltiamo proprio il brano, quello più balcanico e scancheggiante, che si intitola Cigan Ska. E rieccoci in diretta con la seconda parte di puntata di All You Need Is Ska. Oggi abbiamo ospite al telefono Michela Grena della Northeast Ska Jazz Orchestra, che ci presenta il nuovo album Sulla Rotta dei Venti, che esce proprio oggi. Questo brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Un altro istante, tratto da questo nuovo album. Questo però l'avevate pubblicato, se non sbaglio, già 2-3 anni fa come singolo. Questo è, credo, il primo, no, forse il secondo singolo che abbiamo pubblicato, e alcuni ricordi appunto sono un po' confusi perché la stesura dell'album è iniziata nel 2020, quindi con appunto questo Covid di mezzo ci sono alcune cose che ci sono un po' sfuggite. Comunque il brano si è uscito a settembre del 2020, questo, Un altro istante. Ok, quindi infatti era da un po' che lavoravate già a quest'album e oggi finalmente vede la luce, esce proprio oggi, quindi lo stiamo ascoltando in anteprima. E ti volevo chiedere dell'album, quali sono le tematiche che trattate, di cosa parlano i testi delle canzoni? Allora, in realtà senza creare davvero una tematica comune, nel senso che i brani ognuno ha scritto praticamente i propri, quindi io ho scritto i testi dei miei, Rosa ha scritto il suo, Freddy Frenzy ha scritto i suoi, non ci siamo messi d'accordo sul definire prima una tematica, però diciamo che ognuno di noi poi ci siamo ritrovati, ecco, senza dircelo, con una tematica comune, che è sicuramente l'idea del viaggio che può essere sicuramente un momento di grande piacere, può essere un viaggio interiore, che è quello all'interno di noi stessi per cercare di trovare sempre qualcosa, no, di nuovo da rimettere sul tavolo, come in questo caso e come secondo me è stato per tutti quanti noi questo disco, cioè cercare di scombinare un po' le carte, non uscire, ma proprio uscire completamente da quelle che erano per tutti quanti noi delle comodissime zone di comfort. E quindi i testi sono molto personali per ognuno di noi, e per cui le tematiche sono anche varie ma simili. Ci sono, in questo caso, il brano Un altro istante racconta un po' l'idea di saper vivere il presente per poi non ritrovarsi, no, in un futuro a dire se l'avessi fatto, se l'avessi detto, se l'avessi provato. E quindi questo ragionamento. Nel caso di Un altro istante è stato un lavoro per me molto interessante perché Max Ravanello mi ha mandato l'arrangiamento con anche la melodia della canzone, e quindi su una melodia già predisposta io ho dovuto scrivere il testo, che è un lavoro non semplicissimo perché tu ti trovi una concatenazione di note già predisposte, devi scrivere delle parole che abbiano un senso, quindi non sempre facile, no? Certo. A volte è più semplice, per me per esempio è più semplice scrivere testo e melodia insieme. Però nella sua difficoltà è stato un lavoro estremamente complesso, ma molto molto molto interessante, che mi ha permesso di crescere molto nella scrittura. E il brano di Freddy Frenzy, che si intitola Attento, è un brano con un testo veramente molto potente, secondo me, che racconta un po' quelle che sono le insidie di questi tempi moderni, le tecnologie, i social, un po' quello che sembra bello di questa società, ma che in realtà poi ci si ritorce contro se non stiamo attenti. E poi c'è il brano che ha scritto Rosa Mussin, che si intitola Donna di chi. Insomma, vi invito ad ascoltarlo perché anche lì c'è una importante riflessione, no, su questo discorso che riguarda il ruolo della donna in questa società, e appunto l'interrogativo: la donna di chi è, se non che di se stessa prima di tutto. E quindi insomma poi attraverso la canzone, sempre secondo me mescolando il testo con poi il potere della musica viene fuori molto anche della personalità di ognuno di noi, che comunque abbiamo sempre lavorato insieme a Max, che appunto compone e arrangia poi il tutto egregiamente, mi verrebbe da aggiungere. Sì, concordo. E quest'album l'avete pubblicato con questa etichetta spagnola, la Brixton Records, che è quella che vi accompagna da sempre. Tutti i vostri lavori li avete pubblicati con questa etichetta, quindi un bel sodalizio, direi. Assolutamente sì, ne siamo molto felici e anche grati, perché c'è una persona dietro che appunto si è proprio affezionata al progetto e quindi da tanti anni ci sostiene, e non è una cosa scontata, anzi per niente scontata e nemmeno semplice, insomma, di questi tempi. So che ci sono tantissime realtà musicali che fanno proprio fatica, no, a mettere in atto quelli che sono poi anche i costi della produzione di un album, di un vinile. Insomma, adesso poi è ritornato per fortuna molto di moda il vinile, però insomma si sa che il mercato sta un po' facendo fatica, per cui avere un'etichetta dietro che dà una mano vuol dire velocizzare poi le tempistiche anche di uscita della musica. Avete in programma una tournée per promuovere l'album? Assolutamente, infatti noi siamo già da qualche mese, abbiamo iniziato a provare, domani ci troviamo per provare, ma anche un po' per festeggiare l'uscita di questo disco, e quindi diciamo che partiamo con aprile, faremo un po' di date qui in Friuli per poi insomma spostarci un po' in giro anche per l'Europa, e faremo un po' di date noi nord-east di presentazione dell'album, ma poi ci saranno insomma anche un bel po' di date con il progetto Wicked e nord-east insieme, insomma, quindi insomma si prospetta un'estate in viaggio, appunto, sulla rotta di tutti i venti, noi li vogliamo prendere tutti. E ho visto tra l'altro che tra le varie tappe ce n'è una che dire importante, forse riduttivo, importantissima, perché andrete quest'estate anche al Rototom in Spagna, al festival. Felici, ne siamo molto felici, in quel caso noi saremo lì come Wicked Nord-East, quindi non presenteremo propriamente il disco nuovo della Nord-East, però insomma siamo orgogliosi di riuscire a portare questo progetto un po' matto, perché di fatto 20 persone di questi tempi che si mettono insieme a fare cose sono un po' matte, in senso assolutamente positivo, e quindi siamo molto contenti che si possa arrivare fino a lì, perché insomma il Sasquatch per tutti noi, per molti di noi, quando ancora era in Italia è stato davvero l'inizio di tutto. Cioè io tutti gli artisti che ho amato nell'ambito del reggae li ho visti per la prima volta al Sunsplash, per cui insomma è sempre una grande soddisfazione a un certo punto poi della tua vita dire ok, vado anch'io lì dove ho visto tutti i miei idoli. Sì, infatti. Non è male. Sì, una bellissima soddisfazione. E tra le varie date per caso ce n'è prevista qualcuna anche a Bologna? Bologna, sai che attualmente credo di no, adesso non so se Teresa mi telefona immediatamente e mi tira le orecchie, ma mi pare attualmente di no. Ok, che tra l'altro siete stati qui a settembre, quindi sì, da poco sì. C'ero a vedere il concerto, bellissimo, infatti avrei tantissimo piacere a rivedervi, ma non penso di essere l'unico in questa città, quindi spero che tornerete presto anche dalle nostre parti. E l'ultima cosa ti volevo chiedere, l'album esce oggi, dove lo si può ascoltare, dove lo si può comprare? Allora, l'album è uscito oggi in tutte le piattaforme in ascolto, credo che sia possibile acquistarlo su Bandcamp, le copie fisiche stanno arrivando, quindi arriveranno con i primi di aprile, per cui già dalla prima data che noi faremo, che è il giorno 24 aprile a Tolmezzo, quindi qui proprio protetti dalle nostre montagne, in Friuli, già da quella data sarà possibile acquistare vinile e CD. Bene, bene, io da bravo collezionista di vinili non vedo l'ora di acquistare anche il vostro, e quindi ci salutiamo qui. Michela, grazie mille per il tuo tempo, per l'intervista, è stato un grandissimo piacere avervi ospite ai nostri microfoni, e spero di vederci presto anche live da queste parti, e ci salutiamo ascoltandoci un altro brano da questo vostro nuovo album, ascoltiamo Roma, Tokyo, Parigi. Ciao Michela. Mille, ciao, a presto, un abbraccio.